Generalmente sono di statura e di pelle scura. Non amano l'acqua. Molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma sovente davanti alle chiese, donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani, invocano pietà con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano, non solo perché poco attraenti e selvatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche, quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura attività criminali. Propongo che si privilegino i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti, ma disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli americani rifiutano, purché le famiglie rimangano unite e non contestano il salario. Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa prima relazione, provengono dal sud dell'Italia. Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare i più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione. Relazione dell'Ispettorato per l'Immigrazione del Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti, ottobre 1912. E con questo testo, appunto, che è del 1912, quindi pensate di ben 99 anni fa, vi auguro buona serata da Radio Alma e della trasmissione I colori dell'anima. Sono Rosanna, sono in regia e sono in compagnia questa sera di Domenico Locatelli. Buonasera, Domenico. Buonasera a tutti gli ascoltatori, anche a te Rosanna. Allora, con questo brano di 99 anni fa, appunto, vogliamo introdurre l'argomento di oggi, o almeno una parte dell'argomento di oggi, che è quello dei clandestini arrivati in Italia, che arrivano in Italia, ma dei clandestini in genere in realtà. E ne vorremmo parlare in un modo un po' diverso da quello che sentiamo invece quotidianamente nelle notizie. Parleremo però, visto che oggi è il lunedì prima di Pasqua, parleremo anche di questa festività che è molto importante. Possiamo dire che è quasi la più importante per i cattolici? Direi di sì, è una settimana che loro dicono santa proprio perché è piena di nostalgie e soprattutto è piena di memorie da fare e soprattutto è anche una settimana dove scorre il sangue, si parla di un venerdì santo, si parla di una morte violenta data a qualcuno, ma la speranza, pur tremante e spesso a rischio di disperazione, viene mantenuta perché una promessa fatta, qualcuno di potente la realizza attraverso una vita risorta, nuova. Ed è vero, parlare in questa settimana di questi clandestini, o meglio, il linguaggio di queste ultime settimane è un po' corretto e si parla di migranti semplicemente. Non vanno troppo sul sottile dicendo clandestini oppure ecco, che è loro vietato. Però la descrizione, sia a livello di immagine che di parole, ricalca molto questo articolo che hai citato dall'ottobre 1912, della relazione che l'Ispettorato l'ispettore aveva fatto al congresso americano. È qualcosa che colpisce veramente tanto. Ma esiste un uomo sporco? Esiste un clandestino sporco? Esiste un immigrato che sia sporco? Forse nell'esteriore, forse perché dopo tanta durezza del viaggio, tanti rischi corsi, non può avere un cambio decoroso, ma dentro come sono. Infatti, dentro come sono. E comunque è bello fare questo paragone con noi italiani, lo diciamo spesso veramente, soprattutto in queste ultime settimane, diciamo spesso che noi non dovremmo dimenticarci di essere stati dei migranti come lo sono oggi molti che attraversano il mare nelle carrette, però forse non lo diciamo abbastanza o comunque regolarmente secondo me ce ne dimentichiamo. Quindi nei colori dell'anima di questa sera, naturalmente noi torneremo fra pochissimi minuti con voi, ma vi propongo di ascoltare subito un brano musicale, e il brano che ho scelto proprio in tema all'emigrazione italiana è un brano che si chiama Marcinelle, che è stato interpretato dal gruppo Bella Ciao Amarcord nel CD che si chiama Amarcord d'emigrazione. A fra pochi minuti. Questa era la canzone Marcinelle su Radio Alma 101.9, mentre sono le 21:13. Voi siete in compagnia di Rosanna Damario e Domenico Locatelli, e stasera stiamo parlando di clandestini. Ne parliamo perché è l'argomento del giorno, l'argomento di cui sentiamo parlare di clandestini. E quasi che la parola clandestini ci facesse paura, vero? Ma io direi, Domenico, che c'è un po' di confusione. Penso che ultimamente, in queste settimane, appunto, più che di clandestini si parla delle nostre grandi paure che abbiamo. Veramente diamo veramente scandalo, è un teatrino fra Germania, Francia, Italia, dove nessuno se li vuole questi. E sono come ombre, sono delle gente invisibile, ci danno fastidio. Le abbiamo ammucchiate a Lampedusa, e lì a Lampedusa, guai, è una rivoluzione di popolo, è impossibile che diventino più degli abitanti stabili. E come si risolve? Non si riesce a trovare una soluzione. Non è previsto che l'immigrato, lo straniero, colui che sbarca da altrove, possa entrare a disturbare già la nostra vita abbastanza complicata. E allora anche questo teatrino fra i permessi, validi, non validi, lo spazio di Schengen, ma loro sono proprio invisibili. Qual è questo colore? Un colore dell'umanità, ancora un colore? È un colore grigio, direi, che è il colore che abbiamo scelto per questa trasmissione di stasera. I clandestini, chissà perché, almeno per quanto mi riguarda, mi fanno pensare al colore grigio. E poi clandestino non lo vorrei proprio usare. Sono immigrati, sono gente disperata che esce dalla propria terra in modo molto fortuito e molto pericoloso in cerca di altre cose, che sono cose positive, sono colori da mettere sul grigio. È il verde forse di una speranza di una vita migliore, e forse il rosa che una donna spera per il suo bambino che ha subito questa traversata perigliosa lungo il Mediterraneo, oppure il nero ancora che risalta sul grigio, che è proprio di quello sopravvissuto al capovolgimento della barca, dove più di 200 persone sono andate a fondo del mare, e forse magari il colore del blu del cielo che hanno guardato tanto lungo queste giornate di traversata, oppure è veramente il colore del bianco, magari di quando non vedi più per la fame e per la stanchezza, e tutto si imbianca e non riesci più a distinguere i colori della vita, che diventa interessante. Ma sono persone che stanno soffrendo la galera, come si dice, stanno soffrendo delle situazioni imprevedibili da cui con coraggio, forse con determinazione, stanno fuggendo. Ma noi, secondo te, come stiamo reagendo a questo arrivo di persone? Li vediamo ancora come persone o solo come degli scomodi e dei problemi? Beh, secondo me li vediamo, sì, cominciamo ad averne paura e soprattutto ne parliamo sempre in modo molto negativo, mettiamo sempre noi al di sopra, quindi noi contro la Francia, noi contro l'arrivo di queste barche. Sono rari i gesti che sentiamo a favore, sono soprattutto le lamentele. Giuste penso, ma comunque le lamentele degli abitanti di Lampedusa o della Sicilia in genere, e veramente siamo noi che forse sembra quasi che abbiamo noi più paura di loro di quanto noi ne abbiano loro ne abbiano di noi. Senza dubbio la paura ci attanaglia, eppure ci sono anche dei gesti molto belli, simpatici, che le donne stesse di Lampedusa hanno fatto per il bambino che era appena nato e hanno dato le loro copertine, tutte le cose per dare una solidarietà a questa mamma così nel bisogno. Io dico che a volte la struttura e sono le paure di non farsela, di non poterle inquadrare, il fatto che poi non se ne vanno più, è quello che ti imbroglia e rischi proprio di trasformarti in un morto che cammina. Sono ombre e poi abbiamo questo bel Mediterraneo che è diventato un grande cimitero. Tra l'altro ho trovato pubblicato su un quotidiano italiano, L'Avvenire, a cura di Davide Rondoni, un bellissimo articolo, una riflessione che mi sembra molto bella. Se vuoi possiamo leggerne alcuni Certo, stralci. certo. E parla proprio delle ombre. Quelle ombre che ci inquietano e ci strappano dall'ombra. Sono loro, le ombre. Sbucano dalle stazioni, tra i binari e i vagoni. Le trovi lungo viottoli di collina, dove non li aspetti, lontane ormai da dove dovrebbero stare, da dove le avevano recintate, perché le ombre, si sa, non le puoi rinchiudere. Uomini ombra, dai tratti somatici lontani si aggirano, si mescolano alle ombre che già conoscevamo. Li vedi solitari o a piccoli gruppi, raminghi, lo sguardo da fuggiaschi. Traversano l'Italia, ombre che passano. E poi forse si acquattano, si infrattano, entrano in muri disabitati, in catapecchie, le poche che ancora non sono abitate da altre ombre, da altri uomini ombra che cercano un po' di luce. Si muovono sparsi o a piccoli branchi. Li vediamo dalle nostre auto, corrono sui cigli delle strade, traversano campi, li depredano, arraffano, uomini ombra che s'arrangiano. E quando li vediamo, se li incrociamo per un istante, ci viene il dubbio: sono loro le ombre o siamo ormai noi le ombre? Chi è davvero preda dell'ombra? La loro vita rischiosa è animata dall'ansia di cavarsela, di trovare una sistemazione, un espediente per campare. O la nostra avviata com'è e per di più lungo i binari di una quietata tranquillità. In noi a vederli sale una inquietudine comprensibile e forse più profonda della primaria, immediata inquietudine dovuta alle domande che sorgono sul futuro, sugli sbocchi, sull'esito di questa invasione di ombre, per noi, per i nostri figli. Oltre a questa comprensibile, primaria, naturale inquietudine, ne sorge un'altra più profonda inquietudine. Ormai, forse, stiamo diventando noi ombre. Ha ormai la consistenza di un'ombra la nostra umanità, non più tesa a cercare, non più sollecitata dal bisogno, non più animata dall'avventura dura e splendida di vivere. Forse sta diventando un'ombra il nostro cuore. Mentre il loro, quello degli uomini ombra che sbucano da dietro la massicciata della ferrovia, da dietro i fossi, da dietro i guarrai delle autostrade, ecco quel cuore ci pare di vederlo, acceso, intimorito, rischioso e spavaldo. Quelle ombre che abitano il nostro paesaggio ci stanno costringendo a vedere anche le ombre che abitano la nostra anima, il loro passaggio furtivo. Il loro passo solerte e il loro sguardo braccato ci obbligano a sentire quanta vita in noi è diventata poco più che un'ombra. Quanta vita è diventata una memoria sbiadita. Questi uomini ombra ci stanno costringendo, e se li incontri, guardali negli occhi, ci costringono a sentire la vita in tutto il suo rilievo, fastoso e drammatico, grandioso e risolvibile, perché tutte le soluzioni possibili per evitare che l'ombra li laghi non bastano a cancellare l'inquietudine di averne vista anche una sola di queste ombre sui nostri viali, costeggiare i nostri giardini, le piazze o percorrere cauti gli atri delle stazioni. Basta averne vista una sola di queste ombre per sentire di nuovo tutta l'ombra che siamo diventati, tutta la vita, tutto il cuore ridotto a ombra. Perché il cuore tenuto fuori, al riparo dal dramma della vita, tenuto all'asciutto dal mare aperto del rischio, del possibile naufragio o dell'avventura, della ricerca del senso della vita e di una sua maggiore dignità, diventa pian piano un'ombra. Una cosa inanimata, se non superficialmente. Una pietra su cui lasciamo crescere il poco muschio di emozioni passeggere invece che le esigenze primarie e profonde che lo possono impegnare totalmente. Per questo, pur con le mani che non sanno bene cosa fare, con la inquietudine comprensibile, con la coscienza della responsabilità che ci tocca perché le cose non vadano in malora, diciamo benvenute ombre, aiutateci a strappare la nostra vita d'ombra. È un brano estremamente bello e devo dire che mi piace perché è una riflessione molto importante, ma se posso sottolineare una frase di tutte quelle che hai letto, mi è piaciuta questa, perché le ombre si sa non le puoi rinchiudere. È bellissimo questo concetto, che le ombre nella loro labilità, nel loro non esistere, in realtà sono libere. E penso che hai veramente ragione. Soprattutto rischiamo di fare dei nostri occhi una galera, una stanza che vuole chiudere e racchiudere queste problematiche legate all'uomo. E lo vedi nell'organizzazione della nostra società, delle strutture che accolgono quelli che sono poveri, deboli, malati, vecchi o clandestini, oppure carcerati, e ci si dimentica, si prova a dimenticarli, ma ritornano, perché alla fine è lo specchio che fa vedere che il tuo cuore è diventato o sta diventando un'ombra che non dice più nulla. Allora, e con questa frase terribile io direi di fare una piccola pausa musicale. Il brano che vi propongo è il brano di Roberto Vecchioni, Chiamami ancora amore, che trovo molto appropriato per questo argomento, perché l'inizio di questa canzone, adesso lo ascolterete, parla proprio di bambini che arrivano da noi, e che è bello se arrivano, ma non sempre queste persone riescono ad arrivare vive. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Alma con la trasmissione I colori dell'anima, e ci risentiamo fra pochi minuti. Questo era Roberto Vecchioni su Radio Alma, I colori dell'anima, che come sapete va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22 in diretta. Oggi 18 aprile stiamo parlando di immigrati, naturalmente di immigrati che arrivano in Italia, poiché questo è l'argomento del momento, ma abbiamo visto che gli immigrati siamo noi tutti, lo siamo stati in passato, e venivamo trattati probabilmente come oggi trattiamo noi coloro che arrivano da noi sulle nostre coste. In fin dei conti, Domenico, questi immigrati sono dei poveri cristi, quindi siamo in tema con la Settimana Santa, visto che oggi è lunedì santo e che tra sei giorni è la Pasqua. Li possiamo considerare proprio dei poveri cristi, che ne dici? Beh, è una definizione abbastanza intrigante, il povero Cristo. Ma tu ti giudichi un po' una povera crista, te, oppure no? No. Ah, sei riuscita, dici? Ah. No, non so se sono riuscita, però penso che... Chi è il povero Cristo, secondo te? per chi lo diciamo? Il povero Cristo, secondo me, è una persona disperata. Disperata che non necessariamente la disperazione è legata alla situazione economica, ovviamente. Un povero Cristo è una persona malata. Un povero Cristo è uno che magari ha tutto e però è vuoto dentro di sé e quindi è infelice. Ma non ti sembra che noi definiamo uno un povero Cristo, ma partendo dai nostri criteri? Perché conosciamo veramente poco dalla persona che a volte diciamo: oh povero Cristo, guarda quel povero Cristo lì. Sì. Che diciamo praticamente è sfigato, gli diciamo sì, certo. che è sfortunato. Certo. Ma perché hai scelto questa canzone, chiamami ancora, chiamami sempre amore? È una chiave di lettura dei poveri Cristi? È una chiave di lettura per risolvere e affrontare queste ombre che ci girano attorno e ci inquietano? Beh, potrebbe, certo. Potrebbe, questo amore che non finisce mai nonostante le difficoltà della vita, quelle che ci sono, quelle che magari alle volte non ci sono, ma ce le inventiamo, le difficoltà, proprio perché tutto sommato viviamo, almeno noi, relativamente bene, ma c'è un mondo grande che non vive come noi. Io ho l'impressione a volte che, in quanto sentiamo in questi giorni, con tutti questi scontri politici oppure di altro genere, ho l'impressione che aria di amore se ne respira veramente poca, diciamo per niente. Sì. A volte vediamo che chi si occupa di queste persone non ce ne accorgiamo perché stanno in silenzio, perché lavorano come associazioni, come centri di accoglienza, direi anche come solidarietà dei parenti di questi che arrivano dal Maghreb e hanno i loro cugini, i loro parenti in Francia oppure in Germania o in Belgio, qui da noi, e quindi hanno ancora questa rete di connessioni e di relazioni a cui tengono e che vogliono recuperare ricongiungendosi. Ed è una cosa abbastanza di sottofondo, che non ha molto clamore, per fortuna, e vive bene così e riesce a superare ogni difficoltà. Povero Cristo, due parole che si dico francamente che a me non dispiacciono poi mica tanto, sai, perché forse se ci calcoliamo e ci consideriamo solo dei padri onnipotenti, rischiamo di non avere più nessuna umanità. Se riusciamo ad accogliere, accettare anche delle situazioni considerate da povero Cristo, da non riuscito, secondo i criteri oggi molto alla page, molto moderni e ricercati, rischi proprio di attaccarti a visibilità, ad apparenze che però non ti cambiano il cuore. Ho un po' questa impressione. Il povero Cristo è colui che non è calcolato, è colui che non è messo in valore, è colui che non è riconosciuto come persona. Oggi rischiamo, non lo so se sei d'accordo su questa riflessione, rischiamo di considerare uno per quello che sa far vedere, per quello che sa pagare, per la posizione di potere, per la visibilità che può ottenere, ma non per quello che è come persona. E credo che sia una grande illusione. Ma probabilmente è così. Solo che se penso questo, devo dire che è anche molto triste. Certamente. Quindi voglio sfuggire da questo pensiero triste in qualche modo. È vero comunque quello che dicevi prima, che siamo noi che diamo la definizione di poveri Cristi, e da che punto di vista lo diamo, chiaramente il nostro punto di vista, certo, è un punto di vista molto limitato. Direi di sì. Una persona che è impegnata nelle associazioni qui a Bruxelles mi diceva oggi: ma sa che una persona mi ha detto, ma esistono ancora degli italiani poveri? La risposta è affermativa. Ce ne sono, e parecchi, non solo perché sono anziani e soli, non solo perché hanno fatto qualcosa di sbagliato e sono in prigione a Forè, non solo perché sono ammalati, hanno un cancro e sono in fase terminale, non solo perché hanno le famiglie un po' tutte sgangherate all'aria, con i minori da seguire e da educare, ma che sono per forza in mano ai servizi sociali, non tanto per questo, ed è proprio un altro giovane che oggi mi diceva: ma ho constatato e ho incontrato la comunità italiana del mio paese in Italia. Qui ero abituato a vivere un po' nello scompartimento, nella situazione chiusa delle istituzioni europee, mentre invece la realtà comunitaria degli italiani finalmente l'ho incontrata in una grande manifestazione che c'è stata ieri, domenica, alla cattedrale, dove si è fatta la festa degli ulivi, con una presenza di circa 800 italiani che hanno riempito la grande cattedrale di San Michele. E dice: lì ho constatato ancora la comunità popolare degli italiani, con grande sorpresa, perché non mi ero mosso dai 2 chilometri quadrati delle istituzioni, perché lì ho trovato l'appartamentino e non mi sono mosso mai di lì, mentre invece sto scoprendo una dimensione di Bruxelles più normale. Poveri Cristi, ce n'è uno che è Cristo proprio, ma è povero, è finito male, come dice qualcuno. Certo, proprio in questi giorni, tra l'altro. Esattamente, ci prepariamo anche, fra l'altro, l'approccio a questa realtà, diciamo, del Venerdì Santo, che in tutto il mondo, soprattutto nel nostro sud d'Italia, illustriamo con dovizie di particolari nelle processioni, quasi in un teatro popolare, certo, di piazza, certo, di Maria che va a cercare il figlio crocifisso morto finché lo trova, e poi c'è il pianto e poi c'è l'abbraccio in attesa di questo vuoto che è il Venerdì Santo, dove sembra apparentemente non ci sia più speranza e luce fino alla notte di Pasqua. Che vorrei leggerti, se permetti, o se non fai, una frase, una riflessione, una poesia di Alda Merini, che ha scritto nelle sue riflessioni drammatiche con questo libro del Vangelo, un passaggio che mi sembra bello, che a me colpisce molto. O uomo, impasto di bene e di male, leva la luce che è in te, coronala di sacrifici. Tu, uomo, sei lo spettacolo del giorno. Sorgi al mattino, ti addormenti la sera per il buon riposo. Ecco, ogni giorno si compie in te l'equinozio della primavera. C'è un momento in cui fai fiori, un momento in cui fai stelle, un momento in cui fai le tenebre. È in queste ore di tenebre che io ti vengo a cercare. Ovunque comincia la fuga d'amore tra me e te, Gesù. Io che entro nel tuo sonno, e quando tu sogni i demoni della tua morte, e ti senti lontano da Dio, io ti resuscito il giorno. Bagnatevi gli occhi ogni mattino e ringraziate Dio perché vedete la luce, e che questa luce non diventi mai il fuoco della superbia. Vi ho lasciato lavorare, costruire, attendere, perché invece di odiare il vostro fratello non gli dite: vieni a vedere, non ti sei accorto che siamo ancora vivi e padroni dell'universo? Vi ho regalato tutta la terra, e ogni tanto vi attaccate a una misera proprietà e credete che sarà vostra per sempre. Non è così. Il vostro più stupido nemico ve la potrebbe togliere da un momento all'altro. Però, oltre alle valli e alle montagne, c'è un altro regno che voi non vedete, e io vi regalerò la mia consolazione. Voi entrerete nel mio grembo e sarete partoriti ogni giorno nella beatitudine. Voi che siete oppressi ed esaltati nel male, ricordate che eravate violini pronti a suonare le ragioni del mondo. Poi qualcuno, un demone assurdo di sacrificio, vi ha troncato le ultime parole. Ahimè, poveri vetri infranti che siete finiti in mille pezzi e non sapete più ricomporvi. Ma il mio sguardo d'amore tornerà a ridarvi armonia. Non odiate i vostri nemici. Essi hanno contribuito a far sì che voi incontraste il Maestro e leggeste nei suoi occhi le pagine del Vangelo. Io metterò le mie forze al vostro servizio e sarò un Dio di infinita dolcezza. Io ricucirò i vostri panni disgiunti, ricongiungerò le vostre mani che sono state divaricate. Non pregate Dio che vi ridoni ciò che avete perduto. Ciò che avete perduto è tesaurizzato in cielo, è là che vi attende. Intanto Dio vi dà un'immensa ricchezza, quella del dolore. Il dolore è tenebra e forza, perché il dolore è una guida al di sopra di voi, è il fiato di Dio, a cui niente potrà resistere. La fede è il bastone che Dio mette in voi, perché si attorcigli nei vostri corpi la pianta della felicità. E beati voi, che avete il dono delle sante lacrime. E se anche le trovate ingiuste, agli occhi di Dio, appariranno rugiada, che farà crescere rose nella vostra carne. Beati voi che piangete, e vi santificate per gli altri, e siete maledettamente storpi nel corpo, ma diritti nello spirito. Non siete servi, ma vincitori. Andate oltre l'odio dei vostri nemici, molto oltre, perché le vostre lacrime hanno preparato la via del Signore. Ma insomma, bellissima questa poesia, è molto, è una grande speranza. È difficile pensare che le lacrime o il dolore ci purifichino, ci facciano superare tutte le paure. È difficile, almeno soprattutto quando di dolori ne abbiamo tanti. È vero, però è molto bello e consolante vedere delle persone, uomini e donne, che passano anche attraverso esperienze di sofferenza terribili, di solitudine, ma che riescono a resistere e a trovare un senso anche su questo. Io penso che il dolore dell'umanità, dell'uomo, del povero Cristo, non è una maledizione. È qualcosa che dice profondamente quello che noi siamo, il nostro limite, che ci fa piangere, ci fa soffrire, ma che ci fa anche bene se riusciamo a riprendere la misura giusta di quello che noi siamo. La cosa peggiore è quella di vivere sopra le tue possibilità, è quello di incarnare un ruolo che non ti appartiene, non è tuo, è quello di far finta di essere onnipotente. Niente ti fa paura, puoi comandare, puoi avere tutto ciò che vuoi, e poi quello che vuoi non conta nulla, perché non ti apre il cuore, perché non ti fa più sorridente, perché non ti fa più capace di comprendere anche il disagio dell'altro. E non scatta mai questa solidarietà, perché altrimenti rischi proprio di restare solo con la tua superbia, la tua boria e senza nessun amico da amare. E con queste parole andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, questa volta un brano di Lucio Dalla. Naturalmente noi ci ritroviamo fra pochi minuti, mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Alma con I Colori dell'Anima, che staranno con voi fino alle 22. A fra poco. E questo era Lucio Dalla nella trasmissione I Colori dell'Anima. Siamo quasi alla fine e negli ultimi minuti volevo comunque ricordarvi qualche dettaglio, qualche informazione pratica. Allora, intanto il nostro telefono 02 345 2656, se volete scriverci un'email, colori.anima@gmail.com, colori.anima@gmail.com. Se invece volete vedere quali sono le nostre trasmissioni, le trasmissioni in italiano di Radio Alma, potete visitare il sito radioalma.blogspot.com. Allora, oggi con Domenico Locatelli abbiamo così preso lo spunto della problematica, o comunque più che problematica, diciamo, da quello che sta succedendo con gli immigrati, ma Ancora una volta questi immigrati mettono a nudo i nostri difetti, purtroppo, quindi mettono a nudo come la nostra non generosità o anche i problemi appunto all'interno dei paesi europei, come sta succedendo tra l'Italia e la Francia. Quindi basta che c'è un fatto esterno e degli equilibri che sembravano così ben definiti vengono a rompersi, è vero? Tra l'altro mi viene in mente alcune battute molto ciniche che sono girate in questi giorni, quando qualcuno dice: ah, li vuoi tu, portali a casa tua, questi immigrati. Ma io ti confesso che questi frequentare i poveri cristi non è poi così male, sai, ti ridimensionano. Eppure sono capaci anche di sentimenti e di cose molto belle. Se voi vai lì a Saint-Gilles-Parvis, c'è sempre lì una famigliola lì che, come al solito, il loro lavoro è chiedere l'elemosina. Ma il papà si chiama Luciano, e quando mi vede, ciao, lui mi dice: io sono Luciano Pavarotti, mi dice sempre questa frase. Poi c'è la moglie, e poi c'è Sulamita, che è la bambina, molto, l'altro giorno mi dà un cioccolatino e dice: ma la prendi tu? No, te l'ho dato, adesso resta tuo. Questo, parlano tutte le lingue. Stamattina mi viene a trovare uno, un rom, anche lui, ti fa vedere tutte le tessere, quindi ha anche il codice fiscale italiano, tutto. Sono poveri cristi, ma sono una bella compagnia. Basta vincere la paura. Non basta e non serve soprattutto dare qualcosa. Non occorre dare soldi, occorre dare umanità. Riuscire a guardarli negli occhi e a dirgli buongiorno. Dargli spazio, perché sono persone. E queste persone sono veramente, nella loro povertà, nella loro miseria, nella loro semplicità, in una vita molto precaria, se vuoi, però sono persone. E il regalo più grello che possiamo fargli è proprio quello di considerarle delle persone, non dei falliti, non delle persone che non hanno diritto a respirare. Non le possiamo condannare a diventare ombre. Noi ricordiamo in questa settimana santa, dove ricordiamo i misteri cristiani di un Dio fatto uomo, Gesù Cristo, condannato a morte. Noi tante volte con i poveri cristi li condanniamo a morte, cioè non esisti. Non hai il diritto di esistere, non hai il diritto a una carta d'identità, non hai il diritto a un permesso di soggiorno o di mobilitazione. Tra l'altro, se c'è ancora tempo, volevo proprio concludere con uno dei tanti poveri cristi che nella lettura della Passione che abbiamo fatto ieri e che faremo ancora il Venerdì Santo, che è San Pietro. C'è anche Giuda. Ci sono anche i soldati, ci sono i due ladroni messi sul palo, anche loro due insieme a Gesù Cristo. E in un colloquio che sempre Alda Merini attribuisce a Pietro, e che parla a Dio e dice: perché Dio mi parlavi di ricchezze aggiunte alle ricchezze? Nel Vangelo si dice: voi che avete lasciato tutto riceverete il centuplo su questa terra e la vita eterna. Perché la tua semina di pesci nel mare? Tu seminavi i pesci. Io ho creduto al miracolo della ricchezza, ho creduto alla tua volontà di amare. Anch'io ti ho amato, Gesù. Malgrado tutta la tua dolcezza, malgrado i tuoi miracoli, malgrado le tue profezie, ti ho sempre sentito parte del mio cuore. Gesù, per ore, giorni, cammini, io ho capito che eri solo. Sono diventato il tuo mantello nelle notti del lungo dolore. Ti ho coperto e ti ho visto soffrire, ti ho visto attendere e non ho mai capito il perché. Io mi domandavo: Gesù, come potevi soffrire in quel modo mentre sulla terra giaceva inerte un'immensa ricchezza? Però capivo che anche tu saresti sprofondato nell'acqua. Se non c'era il tuo Pietro, il tuo amico del cuore, il tuo servo che tu schiacciavi dolcemente con il tuo dolce calcagno e mi pigiavi come in un tino per il vino della tua passione. Quanto ti ho chiamato, Dio, ma non fino alla conquista della croce. Tu non mi avevi detto di questo patibolo, avevi parlato di regni, Tu hai tradito le mie speranze. Io volevo diventare ricco e sono scappato. Quando ti ho visto ridotto come un cencio per le mie lacrime. Sì che ti ho tradito, per paura, per viltà. Mi avrebbero scotennato. Addio, Signore. Non posso spiegarti perché l'uomo non vuole morire. Ma tu come hai fatto ad accettare la morte? Io questo non l'ho mai capito. Come hai fatto, Signore, a capire che in me covava il risentimento della tua grandezza? Perché, nudo come un delinquente, rimanevi così puro? Lasciami andare, Signore, lasciami scappare. Io ti odio, ti odio. Ma rimarrò sempre il tuo migliore amico. Bellissima anche questa, struggente direi. Allora, io direi, siccome siamo proprio alla fine, vogliamo ricordare le prossime manifestazioni legate alla Pasqua che si terranno qui a Bruxelles nei prossimi giorni? Magari qualcuno dei radioascoltatori è interessato? Volentieri. Innanzitutto la maggior parte degli italiani che sono nelle parrocchie Saint-Gilles, Anderlecht, Aixelles, frequenteranno un po' le celebrazioni che sono nelle parrocchie, quindi in varie lingue, italiano, francese, portoghese, brasiliano. C'è un appuntamento dove si faranno le liturgie solo in lingua italiana e alla chiesa del Divin Sauveur a Schaerbeek, Avenue de Rodebeck 271. Lì vivremo il Giovedì Santo alle ore 20, l'istituzione dell'Eucarestia, l'ultima cena, e ci sarà il simbolico avvenimento molto, molto profondo della lavanda dei piedi. Laveremo la piedi a qualcuno e poi lui lo laverà alla sua moglie oppure a suo figlio, in modo per dire: amare vuol dire mettersi a servizio, vuol dire lavarsi gli uni con gli altri. Inviteremo anche la gente che è lì a lavare le mani all'altro, ad asciugarle, per dire: in concreto tocca il corpo dell'altro, incontra l'altro, il povero Cristo, anche che non è della tua famiglia, e amalo. Venerdì sera, Venerdì Santo, sempre alle ore 20, avremo il racconto della Passione, l'unico giorno dove non si dice più la messa in tutte le parti del mondo. Siamo in silenzio, Cristo è morto, e quindi solo il tempo del silenzio, del digiuno, non mangiare, mettiti un po' tranquillo e pensa a quanti Cristi sono ancora condannati alla morte. E vivremo e abbracceremo questa croce che è il simbolo dei cristiani, è l'elemento su cui Cristo ha riscattato la vita della persona umana. E poi la veglia pasquale, molto suggestiva, con molti simboli. Il primo simbolo è quello della notte e della luce, quindi si accende un grande falò alle 22 della sera, quando c'è buio, e da lì accendiamo delle fiammelle, delle candele, e facciamo un cammino per dire: ecco, non vince la tenebra, non vince la notte, ma è la luce. E poi tutta la lettura per ascoltare questa esperienza di liberazione. Infine anche il battesimo di un'adulta, Teresa, che dopo 2 anni ha accettato e ha chiesto di essere battezzata, e sarà battezzata, e sarà finalmente il canto dell'Alleluia. La vita di Cristo ha vinto la morte. Allora, è con questo, quindi, non mi resta che augurarti buona Pasqua. Anche a te e a tutti i radioascoltatori. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti. Lunedì 25 non andremo in onda perché saremo in vacanza, ma naturalmente torneremo il lunedì 28, no, il 2 maggio. Il 2 maggio, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Buona Pasqua a tutti, buonasera da me, Rosanna, e grazie a Domenico Locatelli. Buonasera a tutti. Buonasera.